Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qui, sono le 21 passate da 12 minuti, qualche istante di ritardo, qualche minuto di ritardo, chiedo umilmente scusa, ma insomma sono cose che possono capitare. Buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera da Agostino Spalore, buonasera dal mio consueto, fedele compagno, cioè Maurizio. Ciao, benvenuto anche a te. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ci ritroviamo a distanza di 24 ore, Maurizio. Sì, un giorno musicale che non finisce mai. Che non finisce mai. Esattamente, il giorno continua sempre, musicalmente parlando. Siamo sempre qui e ci fa piacere, ovviamente. Anche questa sera perché c'è un live anche questa sera dalle 21 alle 22:30 circa, minuto più minuto meno, ma perché questa sera c'è una carissima amica, c'è una bellissima amica, c'è una splendida cantante. Cosa devo dire di più? Niente. Direi che può bastare. Abbiamo Chiara Beltrame. Ciao Chiara. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ben ritrovata qui a Blu Radio Veneto. Grazie, come tornare a casa ormai. Tu sei stata qui un anno fa circa, sì, più esatto, o meno, insomma, esatto. Il concorso, giusto? Sì, dopo il concorso Artisti per New York, ed è bello tornare qui. Che tra l'altro ti è andato anche abbastanza bene, sei arrivata seconda. Direi proprio di sì, ecco. Però non siamo soli. Non siamo soli, dobbiamo nominare uno, due, tre, il quarto. Presente in studio, che è il maestro Francesco Rocco, chitarrista. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao Francesco, benvenuto anche a te, quindi ben ritrovata. Grazie, Chiara, grazie, qui a Blu Radio Veneto. Ti rubo ancora qualche secondo per dire i nostri dati tecnici, il numero telefonico con in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it, e lì trovate tutto quello che può interessarvi inerente alla musica, ovviamente, ma anche nella nostra regione, cioè il Veneto, dove ci sono fatti e quant'altro, insomma, quello che vi può interessare lo trovate lì. E poi ancora ci ascolterete senz'altro se vi collegate nel nostro sito, basta cliccare sulla sinistra in alto, c'è scritto ascolta la radio, lì ci ascoltate 24 ore su 24 in streaming, e quindi siamo sempre presenti qui per il vostro tempo libero. Sono emozionato, Chiara, mi stai emozionando questa sera. E poi ancora le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz. Credo di aver detto tutto, adesso c'ho un bel paio di scarpe gialle qui davanti a me che fanno da pandan, si dice così, in questa copertina di questo disco che porta il nome di Clee. Eh sì, durante quest'anno sono successe tante cose, tra cui l'uscita di questo disco. Sei cresciuta, insomma. Sono cresciuta, però le scarpe gialle sono di tanto tempo fa, non diciamo di quanto tempo fa, però rappresentano un po' la strada fatta, il percorso fatto, no? E questo disco sono molto contenta perché rappresenta un po' il mio percorso fino ad oggi. Oggi chiaramente mi sento anche già in crescita, no? Perché nella musica si cresce in continuazione, si va avanti a scrivere, quindi ho voluto... come dire, segnare un punto con questo disco e nella speranza poi di farne un altro, quindi non vi libererete facilmente di me. Illimitati CD. Ecco, però questo disco appunto è tutto in inglese, ha alcuni dei miei pezzi che ho scritto ormai parecchio tempo fa e anche alcune collaborazioni più recenti, come ad esempio un pezzo che ho scritto con un gruppo indiano e un brano che invece è andato in un disco a sua volta poi per Haiti ormai 2 anni fa. E quindi un po' un insieme di pezzi, come dire, la strada che la Clee ha raggiunto fino ad adesso è questa. E poi ce ne sarà ancora tanta davanti, chiaramente. Insomma, il prossimo sarà un disco in italiano? Penso di sì. Devi rendere onore alla nostra cara amata patria. Penso di sì. Sì. Io nasco come cantautrice che scriveva in inglese, poi a un certo punto ho detto, beh, effettivamente io sono italiana, quindi ho provato a cimentarmi anche con l'italiano. Devo dire che è stata una scoperta, perché l'italiano proprio anche a livello linguistico rispetto all'inglese ti permette di usare molte più sfumature e quindi anche una... come dire, ricerca testuale diversa, una sonorità poi diversa nel cantato, quindi... Attualmente mi sto sbizzarrendo anche con l'italiano. Però ecco. Dicono che l'inglese è la lingua forse più musicale. È molto musicale, certamente. Poi chiaramente dipende da dove ti trovi nel mondo, perché magari in India è molto musicale anche l'hindi, quindi... È ovvio. Bisogna essere aperti. Open mind. Open mind. Tu che parti dal canto jazz, dal soul, dal gospel, hai praticamente dato l'input a tutte queste tue conoscenze in questo disco, praticamente, in questo nuovo, in questo prodotto assolutamente inedito per te. Nuovo. Sì, esatto. È un disco che È un pop 360 gradi, cioè non è un pop nel senso pop popular, questo sì, intendo. Guarda, questo. A me le etichette in genere non piacciono molto, nel senso che penso che ognuno sia unico e viva l'unicità. Per cui questo disco rappresenta me fino a un certo punto, nel senso che chiaramente, come ho detto prima, sono in continua crescita e chiaramente dentro di me ci sono il jazz, c'è il blues, c'è la musica pop, ci sono delle sonorità anche indiane. Sì, certo. E quindi è bello, come dico io nella musica, essere molto onnivori, cioè essere molto curiosi, non dire io faccio questo e solo questo. Questo... Cioè mettersi in gioco continuamente. Sì, sì, sì, sì, esatto. Essere con le orecchie e il cuore aperti e poi per chi scrive anche essere... aperti all'idea che viene. La copertina del disco mi ricordava una copertina di un disco di un gruppo folk inglese e aveva un po' le scarpe un po' più rovinate. Tue scarpe sono ancora poco rovinate. Estate ne hai fatta, ma non tantissima ancora. Perché non le hai viste dal vivo? In realtà dal vivo, sono ben rodate. Bene, bene, bene. Io testimonio, sì. Tu le hai viste, Ago, ecco, in realtà sono bello, ben rodate. Ma è bello, positivo avere messo in copertina le scarpe. Le scarpe danno il significato del viaggio, esatto, della percorrenza, di andare a cercare le cose. Esatto, ma anche di una autenticità, perché io ho cominciato a scrivere, insomma, l'anno scorso, a 13 anni, ecco, sì. Ho cominciato a scrivere alle medie, alle scuole medie, quindi, come dire, erano anche un po' una sorta di monito per me, come dire, di rimanere anche sempre me stessa, di sentire sempre questa esigenza di scrivere. Ma a 6 anni sei già entrata nell'ambiente musicale, a 6 anni possiamo ricordarlo questo? Ma io sì, ho cominciato a studiare canto e pianoforte quando avevo 6 anni, però fortunatamente nella mia famiglia si respirava musica un po' da sempre, quindi... Quindi sì, la musica è sempre stata... Sì, un po', sì, sì, sì, anche da più piccolina. Comune denominatore con continuo, sì, insomma. Sì, sì, sì, sì. Bello, bello, interessante questo, molto interessante. Ascoltiamo qualcosa subito di tuo. Dai, sì. Dai. Guarda, io vi farei ascoltare proprio dal disco la prima traccia che si intitola Be Strong and Go By. E se volete vi racconto un pochino, sì, com'è nata, certo, questa canzone. Be strong and go by vuol dire sii forte e vai avanti. E nasce da una frase che mi diceva la mia prozia Camilla, chiaramente in dialetto veneto. Quindi mi diceva bisogna sempre guardare avanti, che vuol dire bisogna sempre guardare avanti, no? E da questo è nato appunto questo pezzo. E tra l'altro il 22 di luglio uscirà il videoclip di questo pezzo. Quindi tenete d'occhio YouTube, Facebook, il mio sito, magari lo posto anche sul sito di Blu Radio Veneto, sulla pagina Facebook. Cioè, da me ecco, sì, la voglio, lo sai. E... anche perché ho visto un'anteprima comunque. Ci sono già delle anteprime, sì, su YouTube, e la regia è di Marco Businaro e Mauro Tezzon, che sono veramente due personaggi molto, molto bravi, che lavorano molto bene. E, lo diciamo e anche cornice, l'hai fatto? Dove? Io vi posso dire solo che all'inizio ero in un tram, poi scendevo in un prato molto famoso di Padova, pieno di statue, rotondo, e poi l'ultima parte, la vi lascio un mezzo, po' la sorpresa, però invece era in un ambiente più naturale, comunque il 22 luglio lo vedrete. Quindi per i poveri passeggeri del tram, se avete visto una pazza scatenata, ero io esattamente, insieme alla troupe, ecco, alla troupe. E quindi il pezzo è Be Strong and Go By. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Insomma, un disco di maturità. Superato una prova d'esame grande, tuo primo figlio. È una musicale. Parola grossa, maturità. È una parola grossissima. Una parola grossissima. Però, insomma, ci hai provato, dai, di la verità. Sì. Io più di maturità lo vedo come un piccolo tassello di un percorso. Ecco, maturità per me è un'altra cosa. Cioè, nel senso... Però, insomma, dai, è una cosa che volevi tu, insomma. Sì. Quindi sì, è venuta molto come la volevi ed è quella che volevi. Sì, io devo veramente ringraziare molto anche sicuramente Cristiano Gallian e Marco Pollice, che hanno lavorato con me chiaramente a questo disco negli arrangiamenti e con il loro Lounge Room Studio di Rovigo, dove è stato inciso il disco, e che sono stati parte fondamentale di questo lavoro, certamente. Adesso, ritornando al pezzo Be Strong and Go By, che è il pezzo che abbiamo sentito, e come arrangiamento, mi interessava sapere dell'arrangiamento, l'idea dell'arrangiamento, visto che il disco l'hai prodotto te, mm-hmm. Hai detto giustamente prima, che l'ho prodotto io, mi pare questa è una cosa bella, dire l'ho prodotto io, cioè ci sono stati chi ti ha dato una mano, with a little help from my friend, ci sono sempre gli amici che danno una mano, però il disco l'hai prodotto te, l'idea è partita da te. Io voglio sapere l'arrangiamento. Sulla recensione abbiamo scritto che c'è un vezzo pop. Vezzo non vuol dire pop, vezzo, cioè un piccolo riferimento al pop che si incastra attraverso la tua voce. Hai una voce con una certa levatura che si allontana dal pop, ha tanti riferimenti, a tanti momenti la tua voce. Ecco, io voglio sapere come mai hai scelto questo arrangiamento con questo tessuto elettronico sotto. Sì, per dare... Allora, le mie canzoni nascono in chiave acustica, o con il pianoforte o con la chitarra. Abbiamo voluto dare questo vestito un po' più internazionale, con voce quasi soul, leggermente soul. E è proprio per dare un tocco un po' di internazionalità al prodotto finale. Completo, quindi tutti i pezzi, quindi non creare un sound troppo acustico o troppo elettrico o troppo... E devo dire che alla fine, se uno ascolta tutti i sei pezzi, c'è un sound comune che chiaramente non ha a riferimento molto l'Italia, ma infatti internazionale, forse più il mercato estero. Sì, il mercato estero. E il discorso che io avevo ipotizzato, adesso non esistono più. Questo poteva essere un singolo, perché aveva quell'andamento poteva essere un singolo. Certo, infatti l'ho scelto come pezzo per fare poi il videoclip, ecco, il video. Quindi avevi già questa idea in partenza. Sì. Certo, anche perché è un brano a cui tengo molto, nel senso che poi io questo pezzo l'ho dedicato a mia sorella, che si chiama Anna, la saluto, ci sta seguendo dalla Spagna. Salutiamo Anna. Ciao, certo. Anna. E niente, quindi ci tenevo particolarmente, poi appunto l'ho pensato come pezzo per poi il videoclip. L'hai fatto sentire subito a tua sorella quando è nato il pezzo? Oh mamma, non mi ricordo. Non ti ricordi. Beh, lei sa benissimo tutti i miei pezzi, quindi è possibile, sì. Benissimo. Non volevo sapere se aveva sentito anche l'arrangiamento, come l'hai impostato. Ah, lei ascolta, è liberamente costretta ad ascoltare il mio disco. Ah, liberamente. Liberamente. 200 volte al giorno, quindi insomma, chiaramente come la mia famiglia, loro sono liberamente costretti. Liberamente, sì. Ecco. Ma ti hanno dato qualche spunto i tuoi genitori, la tua famiglia, insomma? Per scrivere? Sì, no, in generale, voglio dire, qualche consiglio. Allora, guarda, consigli musicali no, perché i miei genitori fanno tutt'altro, però la libertà di potermi esprimere attraverso la musica sì, ed è una cosa da non dare per scontata, secondo me. Certo. E quindi sono grata a loro per questo. Tu sei reduce, ne parliamo dopo, adesso ci vogliamo ascoltare qualcosa dal vivo, tuo, poi parleremo di Berlino e di ieri sera e di tante altre cose. Tu va sei bene. Poi una che fa di tutto e di più, quindi ecco, insomma, hai una montagna di cose da raccontarci, però prima vogliamo sentirti cantare appunto qui dal vivo a Berlino. Sì, Benito, così sentiamo anche Francesco suonare. Il maestro ha preso la chitarra, mi raccomando, Francesco Rocco, ecco qui. E cosa vi facciamo sentire? Voi mi sentite bene? Sì. E vi facciamo sentire un pezzo che è sempre presente nel disco, che si chiama World's Heart, che vuol dire il cuore del mondo, che è una ballata, una ballad praticamente. Sì, esatto. E niente, questo pezzo è stato scelto come unico pezzo italiano 2 anni fa per un disco internazionale che è stato prodotto prodotto da un produttore, Abby Ken, un produttore di Londra, e i cui proventi sono andati ad aiutare i bambini di Haiti dopo il disastro appunto di Haiti. Quindi è stato per me un onore poter rappresentare l'Italia con un mio brano. E dimmi. Ve lo facciamo sentire. L'ascoltiamo. See your eyes trying to forget. Nothing I can say, words can't express. I can hear your voice when your soul is crying. Even with no tears, the pain is too high. Words heart seems to be dying. The crying is screaming. Oh, of sorrow, nothing remains. We raise our arms towards the sky, asking why, why, why, oh, why, asking why. Petrified, I can't understand. All the air around is breaking down too. Will I ever breathe life with you? Words aren't dead, always last. It's rising up, even if lost, drop by drop. Only tears become treasure for a new future of life. Life, life, blossom of life. Darkness inside me, but now I see the stars. Everything rebirths is a wonderful paradox. With eyes of hope, together believe that only love gives meaning to life. Hai sentito Maurizio che voce? Sì, sì, volevo solo dire una cosa su questo pezzo. Questa impostazione che hai dato, impostazione, ok, si prendi quella là, impostazione dal vivo, acustica, l'hai dato un po', sei portata nei sentieri folk, a me interessa molto in questo momento, e hai giocato col falsetto all'inizio del pezzo. E quello è molto interessante, a me piacciono molto i falsetti, giocare nel falsetto. Sì, giocare anche nel falsetto è molto bello e è molto difficile. Spesso capita che puoi sbagliare giocando col falsetto. Certo. È così, Chiara? Giocando si sbaglia, ma è proprio questo il bello. Con la musica, se la prendi come un gioco, come un modo per imparare su un palco o davanti a un microfono, o quando sei a casa, hai da imparare sempre. E la voce è uno strumento meraviglioso. Cantate, cantate, cantate. Cantando il duol si disacerba, quindi fa bene a tutti. Comunque. Non so se hai notato, Agostino, era proprio direttrice d'orchestra, che dava là anche sì, a sì. Francesco, proprio la, le ma movenze tu, delle mani, però, sì. Vero Francesco? Questo è proprio così. Succede anche dal vivo, appunto, te lo stavo dicendo, di suonare con lei, ed è come avere a che fare con un direttore d'orchestra praticamente. Sì, esattamente. Cioè, sul palco lei guarda contemporaneamente quattro musicisti e dà l'attacco separato ciascuno di loro, semplicemente muovendosi in maniera che se lo facessi io sul palco probabilmente cadrei o non ma io non l'ho mai vista ferma sul palco, tutti i concerti che ho visto tuoi, insomma, è impossibile vederti ma insomma è bello anche così, insomma. Infatti ecco. Allora, 21.35, cara Beltrami, qui a Blu Radio Veneto, in questa presentazione di questo disco, che poi tra l'altro ufficialmente esce la settimana prossima. Sì, lo presentiamo il 22 di luglio in una bellissima cornice che è quella di Villa Breda a Padova. Mm-hmm. E c'è questo festival estivo, mi hanno dato una serata tutta per me proprio per presentare questo pezzo. Sarà accompagnata disco. Da dei musicisti pazzeschi, come sempre nei miei concerti d'altronde. Mm-hmm. E niente, tra l'altro probabilmente riusciremo a fare anche l'anteprima del video, quindi una serata da non perdere. Segnatelo, avete l'agenda sotto mano. 22 luglio, ore 21, concerto di presentazione di Chiara Beltrame. Tanto è gratuito, quindi gratuito, potete portare amici, parenti, fidanzati, non fidanzati, vi potete fidanzare quella sera, insomma. fate insomma, voi, c'è di tutto e di più. Io farò un buon sottofondo, quindi poi se volete fidanzarvi io sarò ancora più felice. Fai il testimone di nozze poi. Ecco, su questo noi esageriamo, non esageriamo. Andiamo un po' troppo oltre. Allora, già, una cosa interessante, mentre tu parli, ti dai proprio una spinta, ti fai una specie di pubblicità, autopubblicità continua. Caro Maurizio, se un musicista non si fa un po' di pubblicità, quello di quel tempo che corrono, 2012, vero Chiara? Dove andiamo? Dove andiamo? Esattamente. Guarda, io so che anche all'ascolto ci sono tantissime altre cantautrici, cantautori e musicisti. Io vi saluto, vi abbraccio tutti. Credo ci sia anche Elsa Martini. Ecco, ciao Elsa. Perché ieri sera e domani sera ascolto. E niente, nell'Italia del 2012, ma un po' in tutto il mondo, bisogna darsi molto da fare in generale. Nel mondo è più facile o più difficile, Chiara? Credo che in altri stati sia più facile. In Italia, purtroppo, siamo un po' delle caprette, ho usato un termine fine. Sì, sì, caprette. Ecco, abbiamo il pane e ne abbiamo tanto, ma i denti Non ci sono. E io, guarda, potrei parlare per ore di questo argomento, però mi trattengo dicendo che chiaramente un cantautore, una persona che fa musica, un musicista, un cantante, uno strumentista fa ancora più fatica e deve darsi molto da fare e deve fare anche quello che non è il suo lavoro, quindi la promozione, quindi cercare tutti i canali. Fortunatamente oggi abbiamo anche internet, che è un canale potentissimo per queste cose, però ecco, chiaramente viviamo in uno stato che non aiuta i musicisti per niente, per cui bisogna darsi da fare e io non mi arrendo e mi do da fare nella speranza che serva a qualcosa. Bisognerebbe avere un politico che magari sia un cantante. E i politici all'ascolto, aprite bene le orecchie, sto parlando a voi. Allora, Chiara, so che tu sei reduce da una tournée europea. Addirittura. No, un concerto in Germania, via. Sì, ho avuto la fortuna. Ecco, il bello di internet, il bello del 2012 è che molti posti lontani sono raggiungibili velocemente. E la cosa bella è che la musica unisce, la musica crea ponti, dei ponti pazzeschi. E quindi durante questi anni ho avuto la possibilità di fare dei concerti non solo in Germania, dove sono stata ultimamente e ho suonato con dei musicisti veramente molto bravi e abbiamo fatto un progetto lì, e lì veramente è molto bello suonare, perché la gente, tu vai in un locale a fare un concerto, la gente ti ascolta, non chiacchiera come qua tutto il tempo, no? Però a noi ci piace tanto parlare, vero? Anche questo. Ma Berlino, che aria si respirava a Berlino? Visto che si fredda, fa sempre freddo. Fa sempre freddo, però non la gente, era molto calda. No, la gente, guarda, io ho detto, chi mai verrà ad ascoltarmi? Chi conosce la Chiara Beltrame, la Cli Beltrame a Berlino? Invece devo dire la verità che la gente è andata a informarsi su chi ero ed è venuta ad ascoltarmi, anche molto numerosa, quindi Bene. Sono stata molto contenta. E poi appunto nel corso di questi anni ho avuto modo anche di suonare in Spagna, in India, quindi veramente la cosa bella di questi tempi è che c'è la possibilità di viaggiare e di farlo anche con la musica. Beh, quel progetto in India è stupendo. Dopo ne parliamo. Perché quello mi ha proprio colpito nel cuore, sai, Chiara. Te lo dico sinceramente questo. E volete che ci ascoltiamo qualcosa di tuo? Sì, dai, facciamo qualcosa in italiano adesso. Sì, certo. Visto che ho tirato fuori una vena un po'. pseudo polemica, io farei sentire un pezzo che si intitola L'elefante col tutù. E uno dice: ma che titolo è? Potrebbe essere un'idea. Ecco, L'elefante col tutù l'ho scritto in un momento in cui mi sentivo come un elefante col tutù, perché l'elefante col tutù è un po' goffo, no? Un po' lento, un po' così inopportuno, e penso che un po' a tutti nella vita sia capitato di sentirsi in ritardo, che stai correndo, stai facendo mille cose, dici ma dove sto andando, no? E, oppure ti sembra di correre, fare mille cose e poi di non avere niente in mano e di farne male altre, e da questo insomma è nata questa canzone che si intitola L'elefante col tutù. Sento gridare i miei pensieri, ultrasuoni inutili nella realtà, uragano vestito di sorriso che dà parvenza. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una curiosità però me la devi togliere, su questa canzone e anche sull'altra che poi ascolteremo. Perché non hai voluto inserire proprio in questo tuo primo disco? Perché è nata dopo. Solo per questo motivo? Sì, anche sì, l'altra sì. È nata dopo? Sì, è perché sono nate dopo. Quindi, e quindi per il secondo disco ci sarà. Adesso non svegliamo. Però sì, è nata dopo, e poi anche per coerenza era un prodotto più, come dicevo prima, un po' più internazionale, no? Per cui hai scelto questa anche linea, il secondo disco. Vabbè, sì, e un no? po' di curiosità. Questo... Abbiamo avuto l'anteprima così. Sì, avete... chiaro. Questo è un pezzo molto swingato, perché lo swing fa parte del tuo DNA. C'è poco da fare. Sì, ti piace? Sì. Sì, sì, sì. Poi ha collaborato con me per questo pezzo Giovanni Perin, che salutiamo, che ci sta ascoltando da Berlino. Salutiamo, cioè, questa da sera Blu Radio Veneto abbiamo un po' veramente international. L'abbiamo avuto qui l'altra volta. L'abbiamo avuto qui l'altra volta, un vibrafonista molto bravo. E lui ama particolarmente queste sonorità. Sì, lui ama molto il jazz. Esatto, è vero. Sì, sì. Ti ricordi quella sera a Molise che aveva il vibrafono? Certo. Sì. Abbiamo occupato tutta la sala. Abbiamo fatto stare un vibrafono. Abbiamo un vibrafono meraviglioso. Sì, dentro lo studio di Blu Radio. Comunque l'aspettiamo ancora, Giovanni. Giovanni, ti aspettiamo. Anche Francesco ti aspetta. Volentieri. Allora, ieri sera, a proposito di concerti, hai fatto un altro concerto. Sì. In duo, con un'altra amica di questa emittente. Esattamente, con una cantante, devo dire, straordinaria, veramente straordinaria, da cui ho anche proprio imparato molto facendo questo concerto, che è Alessandra Pascali. E, che salutiamo. Che salutiamo sicuramente. E è stato un concerto per il Rubano Art Festival e sì, ultimamente fortunatamente si suona, si canta finché si può. Cioè, non so se avete capito, noi a Padova abbiamo qualche voce femminile bella, eh? Certamente. Sì, sì, siamo in tante, per fortuna. Sì. Che repertorio avete fatto ieri sera? Più jazz. Sì. Il standard, standard comunque. Sì. Standard, poi ho fatto un pezzo mio, poi Alessandra ha fatto qualcosa suo. Ha fatto un pezzo in Salentino. Sì. Quindi è stato una bellissima serata proprio. Bene. Allora, vi ricordo il nostro numero telefonico per i vostri SMS, se volete scrivere qualcosa a Chiara, volete fare qualche domanda, tu sei ovviamente disponibile. Qualsiasi tipo di domanda, in qualsiasi lingua. Va bene, allora vi ricordo. Accendi subito Google Translator, per favore. 346 23 20 033 per i vostri SMS, anche per un semplice saluto, mezzo ti faccia assolutamente piacere. Assolutamente. Oppure ci sono le pagine Facebook, ne ho aperte tutte per vedere. Anche la mia, la tua, insomma, quella della radio, insomma, se volete potete scrivere tranquillamente, così risparmiate anche i soldi degli SMS. Ecco. Maurizio. Sì, adesso hai scelto un pezzo dedicato, cioè vicino alla più grande repubblica del mondo, che è l'India, praticamente. L'India, al di là dei progetti importantissimi che hai avuto, musicalmente, che cosa ti ha attirato dell'India? Al di là del discorso del sita beatlesiano, e quindi siamo partiti tutti dal sita di George Harrison, eccetera. Guarda, è una domanda che nasce dal cuore. È una domanda molto interessante. Allora, musicalmente parlando, ho avuto la fortuna di ascoltare cose molto diverse in India. Io sono stata in India 4 volte dal 2008 ad oggi, magari dopo spiegheremo anche il perché. Certo. E ho avuto la fortuna di ascoltare cose molto diverse dalla musica classica indiana, che non è la nostra musica classica, è la loro musica classica, a nuove tendenze, quindi un rock sperimentale, metal. Sì. Come tu hai detto, è uno stato grandissimo, è come dire l'Europa. Certo. Ecco, per cui è chiaro che mi sento di sapere, no, una briciola, ma una particella di una briciola della musica indiana. Però ho avuto la fortuna di conoscere una band indiana che si chiama Vinapra, esatto. Chissà se ci stanno ascoltando, perché loro sono su Facebook e ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma quasi. E loro sono molto bravi, sono di Bangalore, quindi del sud dell'India. E niente, loro lì sono su MTV, perché MTV c'è anche in India. E ho avuto la possibilità di incontrarli mentre ero lì. Abbiamo collaborato alla scrittura di un pezzo che è nato come italiano e hindi. L'hindi è una lingua molto bella, molto musicale, come l'inglese, per dire. Ma tu parli anche quella? No, non lo parlo. E dopo nell'album, nel mio disco, l'abbiamo inserita. Abbiamo inserito anche una versione in inglese e hindi. Cosa ti hanno dato musicalmente questa band indiana? Cosa hai sentito? Ho sentito una passione enorme per la musica, nonostante una difficoltà che lì è ancora proprio ancora più grande dell'Italia, nel senso che in India o diventi famoso perché lì c'è Bollywood, no? Quindi la musica legata al cinema. Esatto. E quindi o diventi famoso attraverso quella strada o attraverso la musica classica, però se fai altri generi è veramente molto difficile. Devi fare un altro lavoro, altrimenti fai proprio la fame. E quindi mi hanno trasmesso una grandissima passione per la musica. E tra l'altro questo pezzo appunto è nato durante il mio secondo viaggio in India, che è stato particolarmente lungo. Io sono stata in India lì la seconda volta 3 mesi, per cui ecco, è un pezzo a cui sono molto legata, e si intitola Shine Like a Star ed è la traccia numero 4 del mio disco. Vi facciamo sentire la versione in italiano e in hindi. Nataraj, che è il cantante dei Vinapra, ha una voce secondo me stupenda, e... però non voglio influenzarvi troppo, magari l'ascoltiamo. Certo che l'ascoltiamo. Ecco. Allora, Shine Like a Star. È dedicata a te questa canzone, come una stella, splendida come una stella. È troppo buono, Cristina, troppo buono. L'ascoltiamo. La tua voce dentro me, il suono del silenzio mi consuma, come acqua in terra arida, la tua voce non ascolterò, musica sarà il suono del mio pianto. Radio Sera. Eccoci qua, quindi ancora in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Chiara Beltrà. E maestro Francesco. E maestro, maestro Francesco. Al quale volevo chiedere, quanto difficile è lavorare con Chiara? È la seconda volta in realtà, cioè ci siamo trovati appunto per quello, quasi per caso la prima volta. Mm-hmm. In realtà devo dire, una cantante organizzatissima, mm-hmm. Porta sempre con sé tutto il materiale possibile, pensa sempre a tutto. In realtà da questo punto di vista devo dire che il suo carattere bello vivace si rispecchia anche molto nell'organizzazione, quindi in realtà è molto piacevole, sì. Non hai difficoltà? Non ci sono problemi, sì. No, ma io parlavo dal punto di vista musicale, ovviamente. Dal punto di vista musicale... È facile da seguire la sua voce, insomma. Sì, la voce e soprattutto il suo modo di cantare anche da un punto di vista anche solo gestuale è molto... molto facile da seguire, permette davvero con mezzo sguardo, con la coda dell'occhio, di capire se vuole un attacco, se vuole rallentare, se vuole, molto comodo. E poi a prescindere da questo, insomma, le sue canzoni sono molto diverse tra di loro. Appunto, si parlava prima della produzione, quella in inglese e quella in italiano, sono si vede che vengono da influenze molto diverse e che da periodi anche di un vissuto molto diverso, e quindi come musicista nell'affrontare appunto queste musiche qui è molto interessante vedere qual è stato il percorso di questa cantautrice attraverso il come cambia il suo modo di scrivere musica. Ecco, questo, nonostante sia appunto la seconda volta che suoniamo insieme, è davvero curioso. Ma come è nato questo incontro tra voi due, insomma? Tra me e Francesco? Sì, musicalmente. Come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto tramite Giovanni Perin. Ah, ecco. Esatto, ma sai che tra musicisti poi sì, certo. Prima o poi ci si conosce tutti. Comunque non so, allora, Francesco... Allora, generalmente la prima cosa che io guardo in un musicista perché possa suonare con me è che sia molto carino. Ah, non importa se sbaglia, ecco perché. Se sbaglia due o tre accordi mi piace anche, sì. Ma deve essere molto bello sul palco. Allora, se è molto bello sul palco, allora c'è il primo approccio, cominciamo a fare qualche prova. Poi se è tanto tanto bello, non serve neanche il provino. Musicisti all'ascolto. Non so se hai visto Chiara mentre parlavi, Francesco, ma aveva la frusta se sbagliavi a dire qualcosa. Addirittura. Sono così cattiva. Bene. E a proposito di questo, adesso ritorniamo al pezzo. Pezzo indiano. Com'è stato l'incastro fra le due voci? Hai avuto delle difficoltà? A me non sembrava. Lui andava alto, tu andavi alta, poi lui si abbassava e te ti abbassavi. Com'è stato l'incontro fra le due voci, le due sonorità vocali? A me interessa quello, visto che hai studiato canto. Sì, allora guarda, è andata così. Io sono rimasta, ti dico il nostro primo incontro così capisci subito. Sì. La prima volta che mi sono recata a Bangalore, che era a parecchi chilometri da dove mi trovavo io in India, ho fatto un viaggio di 12 ore in pullman. Perfetto. Con un'aria condizionata lì altissima, e quindi sono arrivata lì, non dico afona, ma quasi, praticamente assiderata. E poi chiaramente lì il livello di pulizia non è proprio come qui. Quindi avevo una voce paragonabile, ecco, più a un aspirapolvere che a una cantante. E anche questo mi ha permesso di mettermi ancora di più in atteggiamento di ascolto verso questa band che io andavo a conoscere. E devo dire la verità che sono rimasta affascinata dalla vocalità di Nataraj, perché pur non avendo studiato canto come noi intendiamo qui, aveva tutte quelle caratteristiche vocali tipiche proprio della vocalità indiana, ad esempio la ripetizione, il mantra totale. Sì, ma più che altro proprio un uso anche del fraseggio melodico, per esempio anche degli intervalli dei quarti di tono che non abbiamo in orecchio, no? Per cui questa canzone è nata proprio da un ascolto che era costretto, perché non è che potessi cantare più di tanto la prima volta, appunto. Però poi abbiamo capito anche su che range muoversi. Lui ha una voce molto acuta, molto piena, cresce, molto calda. E poi chiaramente il pezzo non è indiano, no. Ha delle sonorità indiane, però loro sono una rock band, e quindi abbiamo creato questa sonorità un po' rock, soprattutto da metà pezzo in poi, in cui abbiamo dato proprio spazio alle nostre voci, mantenendo anche la nostra unicità, nel senso mantenendo la mia voce di bianca, sì. E mantenendo la sua voce poi di indiano, e credo insomma che sia venuto un bel connubio, ecco. C'è un altro però un motivo che ti riguarda molto da vicino per quanto riguarda quei posti là, insomma. Sì, è il motivo originario per cui sono andata in India. Certo. Sì, l'ho già raccontato ai microfoni di Blu Radio Veneto, ma lo racconto con piacere ancora e lo racconterò con piacere sempre. Dal 2008 ho la fortuna di far parte di un progetto che si chiama Grace, che prende il nome dalle iniziali di 5 amici, Giulia, Riccardo, Alberto, Chiara, che sono io, ed Elena, e che poi ha visto anche altri amici aggiungersi. E questi cinque amici hanno messo in comune la passione per la musica e per l'aspetto più educativo. E niente, abbiamo messo in piedi questo progetto, che è un progetto educativo musicale. L'abbiamo portato in India dal 2008 ad oggi, in un centro per bambini orfani ed abbandonati di Kerensher, che opera appunto nel sud-est dell'India, nello stato dell'Andhra Pradesh. E grazie a questa esperienza, che mi ha visto lì appunto quattro volte, sono nate poi delle collaborazioni artistiche come questa appunto con i Vinapra. È un'esperienza che, come potete immaginare, è difficile da descrivere in poche parole. Io posso dire che quello che ho visto è come delle storie di questi ragazzi, di questi bambini con cui abbiamo lavorato, che sono diverse centinaia ormai. Uno può dire: ma voi non siete né medici né portate del cibo, portate la musica. A cosa serve in uno stato in cui si muore ancora di fame, in cui i bambini mangiano la terra, in cui i bambini vengono buttati nell'immondizia, in cui si fa la fame proprio? A cosa serve la musica? È una domanda che io mi sono fatta tantissime volte stando lì, è una domanda che mi ha messo anche molto in discussione. Però la risposta ce l'avevo quotidianamente nel viso di questi bambini, nei loro sorrisi, nei loro occhi, e io credo che proprio grazie alla musica, condita sicuramente con una dose di amore giornaliero e concreto, molto concreto, e proprio ho rivisto rinascere dei sorrisi. E poi anche la musica è un mezzo potentissimo proprio per non solo muovere le emozioni, ma anche questi bambini hanno dei vissuti molto tragici, ecco, per cui anche magari per elaborarlo e per in un qualche modo conviverci e anche interagire tra di loro, ecco, per cui sicuramente un'esperienza che mi ha dato tantissimo e che mi dà quotidianamente tantissimo, mi mancano in una maniera assurda. E una, ecco, in particolare, però. Una in particolare, sì. Comunque, per non prendere troppo tempo, se volete andare a visitare il nostro sito www.gracegroup.it, lì trovate tutto il materiale, la nostra esperienza, le foto. Trovate anche una bellissima intervista che Noah, la cantante israeliana Noah, ci ha rilasciato l'anno scorso. Appunto, ho avuto la fortuna di intervistarla. Lei è un'altra artista con la A maiuscola che unisce il talento, perché ha un talento pazzesco, anche all'umiltà di essere aperta a questi progetti, e lei appunto ci sostiene e ha rilasciato questa bellissima intervista, quindi a se te. Volete andare, sì sì. Poi hai detto una cosa molto bella: metodo importantissimo. La musica è un metodo importantissimo. Mm-hmm. La musica non ha confini, non ha barriere, non ha diversità. Sì, e ma non, musica... non sono parole così. No, ci credo. Io ci credo fermamente che è così. Mm-hmm. Musica è stata portata in qualsiasi posto del mondo, sì, con lingue diverse, perché la musica non ha lingua, è una lingua universale, secondo me. Verissimo, verissimo. Però è uscito una perla, una chicca da questa sì, storia. Essendomi recata in India, chiaramente tutto quello che ho vissuto lì poi a un certo punto doveva venire fuori, no? E quindi doveva venire fuori attraverso anche la musica. E io da sempre, perché scrivo canzoni? Perché ho questa esigenza di raccontare delle cose, raccontare dei pensieri, raccontare delle esperienze che vivo o che vedo vivere attraverso la musica. E niente, nel 2008, la prima volta che mi sono recata lì, un giorno è stata trovata nella spazzatura una bimba molto piccola, pesava 1 chilo. Se voi unite due mani in questo momento a casa con i palmi alzati, ci stava su due mani. E questa bambina si chiama Tara. E niente, mi è entrata particolarmente nel cuore, perché non capita proprio tutti i giorni per noi italiani con il piatto di pasta davanti di assistere ad una cosa del genere. E questa bimba poi è diventata la mia sorellina adottiva e adesso è stata adottata da una famiglia indiana, che è poi la cosa migliore per questi bambini, ecco. E da questo incontro posso dire che mi ha anche profondamente cambiata, nel senso che mi ha suscitato dentro un amore grandissimo per lei, e come lei ci sono tantissimi bambini che hanno questo tipo di storia lì, soprattutto bambine, ma anche delle domande molto forti, delle domande belle, toste. E tutto questo mix di emozioni l'ho fatto poi confluire in questo pezzo, e devo dire che probabilmente anche quando la musica racconta qualcosa poi arriva a chi l'ascolta, spero, ecco. E noi ci emozioniamo, va bene? Va bene. Tara. Vita di chi più non vive il sorriso, di chi non ha mai pianto. Canto di chi più non vede il cuore che batte, nel nulla fuso di due inesistenze. Vorrei che la musica arrivasse lontano. Your love isn't me in my life and every song that I sing. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ti emoziona sempre quando la senti questa canzone, vero Chiara? A me sì. Si vede. A me sì. Si vede, bellissimo, bellissimo, vuol dire che la senti talmente tanto che insomma è proprio come se fosse proprio come una figlia, insomma, indipendentemente dalla storia che c'è. Sì. Bellissimo, bellissimo. Blu Radio Veneto, Agostino, Maurizio, ma soprattutto Chiara Beltrami Cli con questo suo ultimo lavoro, o meglio, il primo lavoro. Brava. Che si chiama Cli. Però anche se questa canzone comunque non c'era, ma ci sarà. Ma ci sarà. Non poniamo limiti. E poi questa è una canzone che tra l'altro hai partecipato anche l'anno scorso al concorso Artisti per New York, lì non hai vinto, ma però con questa canzone l'hai vinto in qualche altra parte, giusto? Sì. Hai vinto un sacco di concorsi. Sì, quando dicevo prima, probabilmente è una canzone che arriva, no? Anche ai cuori, non so. E sì, sono arrivati dei premi e... il premio Musica Controcorrente per cantautori, il premio Kim e ultimo il premio Beatrice, che è una cosa che mi ha fatto molto piacere e che è stato proprio a maggio scorso a Verona, e ho avuto la possibilità proprio grazie a questa vittoria anche di condividere il palco con i Sonora, con Iskra Menarini e quindi di raccontare questa canzone anche su quel palco, ecco, del Teatro Filarmonico di Verona. Quante soddisfazioni in una canzone, eh? Sì. Meritatissimo. Ma per me, guarda, la cosa importante, certo i premi ti fanno un sacco di piacere, poi la cosa più bella di questa canzone è cantarla ogni volta davanti a delle persone diverse ed è come dare voce a questa storia, no? Quindi, certo. Così. A proposito di canzoni, così, cosa ti piace ascoltare quando sei sola? Oppure giriamo la domanda come piaceva fare a Maurizio, se andiamo in un'isola deserta, cosa ti porteresti? Oh, mamma mia... Mi porto via YouTube, posso guardare tutto. Questo non è valido, non è valido questo. Mi porto neanche l'iPod. Non è valido neanche tre, questo. Te ne concedo tre. Mamma mia. Anzi, finché ci pensi lo facciamo dire a Francesco invece. Grazie. Dai, io ho la risposta, perlomeno il primo, è abbastanza pronta, perché De André. Ah, Sì, sono abbastanza appassionato. L'unicum, tutto di De André. Tutto, o quasi tutto. Ci sono dei bei distinguo da fare, insomma. Sì. Diciamo che il mio lavoro... Ho fatto due lavori che mi affascinano molto. L'ultimo, che è L'anime salve, in collaborazione... Disco difficile, secondo me. Molto difficile, ma molto bello. Con la collaborazione, appunto, di Fossati, che si sente molto... e che ha influenzato molto appunto il lavoro finale. Sei proprio affidato a Fossati, esattamente, me. Molti testi ha scritti praticamente lui. E anche negli arrangiamenti questa cosa si sente molto, un vestito molto molto elegante, molto bello. E poi c'è il grandissimo, secondo me, Creus de Ma, del quale appunto molti conoscono il pezzo che dà nome, però è un album di una ricchezza e di un'importanza storica anche a livello del musicale italiano, unico, insomma. L'ha detto anche David Byrne. Sì, ha detto che il miglior album che lui ha, uno dei migliori album che lui ha mai sentito, David Byrne, è il leader dei Talking Heads, quindi, musicista straordinario. È con la collaborazione appunto di un grandissimo musicista come Mauro Pagani, insomma, quindi non poteva che venire fuori un lavoro che mi porterei su un'isola deserta, sicuramente. Di Andrea, insomma. Poi? Ecco, e a questo punto cominciano le difficoltà. YouTube, in effetti, come seconda scelta potrebbe essere. No, ma dovrei... Cerca di scegliere qualcosa. Abbiamo parlato dell'universo di Andrea, poi? Sì, mi affascina... Beh, a parte l'ambito classico, io studio chitarra classica principalmente, quindi portare con me sicuramente le trascrizioni di Bach per chitarra sarebbe una soluzione... Bello questo. Interessante. Si può fare i concerti di Brandeburghese un secondo qua? Il concerto di Brandeburghese, la trascrizione è in corso d'opera. È in corso d'opera, però ci stiamo lavorando. sì, quindi sicuramente, ma anche nella musica classica appunto c'è una ricchezza. Nel repertorio per la chitarra classica molte volte non è molto conosciuto. Si sviluppa soprattutto nel Novecento, dietro la figura all'inizio di Andrea Segovia, appunto questo grande chitarrista. E gran parte dei compositori che però scrivono per questo strumento, che viene riscoperto nel secolo scorso, non è ancora stato portato bene alla luce. Molte volte anche nell'ambito della stessa musica classica, delle stesse stagioni concertistiche, non è ben sfruttata la possibilità sonora appunto di questo strumento, che ancora ripercorre i soliti percorsi appunto un po' tracciati in più di un secolo, e invece hanno una ricchezza dietro che andrebbe scoperta. Come terzo, ma questo va proprio a periodo, insomma, ultimamente probabilmente porterei un po' di del buon vecchio Sting, insomma. Poco... L'hai visto anch'io, recentemente? Anch'io. Recentemente l'ho visto per la seconda volta. E, l'ho visto la prima volta con l'orchestra a Venezia, e, quindi musicista con una capacità, un'intelligenza musicale notevole per insomma, gestire un'orchestra sinfonica non è da tutti. E vorrei vedere Chiara Beltrame, appunto, come si diceva prima, secondo me... Che ha quell'indirizzo qui. Lei potrebbe fare il direttore perché d'orchestra. Perché no? Oh, mamma mia. E, ecco. tu Chiara invece? Ecco, tocca a me. Tocca a te, sì. Certo. Ah, io ho tirato tempo. Ma... nel frattempo. No. Allora, guarda, io ci ho pensato. Posto sempre il discorso che sono onnivora, quindi proprio anche per me va a periodi, però sicuramente un disco di Noah, perché ritengo che sia una cantante, ma non solo, una cantautrice, una donna, un'artista grandissima. E vi invito proprio ad ascoltarla e soprattutto nei live. Ecco, l'abbiamo in sottofondo. Wow, ecco, per cui sicuramente un disco suo. E anch'io mi porterei, ma me lo porterei proprio nell'isola deserta. Ah, ecco, a questo punto. Il buon vecchio, ma sempre bellissimo Sting. E poi sicuramente qualcosa di Ella Fitzgerald, perché resta un mito del jazz, ma non solo, della musica a 360 gradi, non puoi non amarla. E assolutamente. E poi chiaramente quarto, aggiungo un quarto, il disco di Klee, chiaramente. Mi pare giusto che sia così. Che era anche il quarto di Francesco, non l'ha detto, per timidezza, diciamo così. E, ecco, poi ce ne sarebbero tantissimi altri, anche tantissimi altri che sto scoprendo ultimamente, che sto riscoprendo, anche autori italiani. Proprio l'altro giorno riascoltavo alcune canzoni anche di Fossati, della Mannoia, per cui... Ecco. E per cui ci fai qualcosa di questi autori? Ok, dai, vi facciamo un pezzo... Ecco, sembro il Papa con il Cerbero, fratelli. E vi facciamo un pezzo così, dai, in estemporanea, vi facciamo I treni a vapore. Ok, vai pure. Qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne, piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da salvare. Le città importanti, mi ricordo Milano. E sprofondata per sua stessa mano. E se l'amore che aveva non sa più il mio nome, e se l'amore che aveva non sa più il mio nome. E di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. volta sogno, perché voglio sognare. E mi sogno i tamburi della banda che passa o che dovrà passare. Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani. I ragazzi della scuola che partono già domani. Il sogno, i sognatori che aspettano la primavera o qualche altra primavera da aspettare ancora, tra un bicchiere di neve ed un caffè come si deve, questo inverno passerà. E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora Chiara, ti riscopro un po' Fiorella Mannoia, eh? Mamma mia, esageriamo. Chiedo scusa a tutti i chitarristi presenti. Che, ma in effetti non sapevo che suonavi anche la chitarra. Sì, sì, allora suonare è una parola grossa, io strimpello. Però sì, mi piace. Sì. Beh, prossimamente diventerai brava anche con la chitarra. Beh, brava, bravo, c'è Francesco. Beh, ma c'è Francesco Rocco che ti insegna, un maestro, sì, quindi sì, potrebbe sì, insegnarti. Assolutamente, ecco. Posso dire una cosa su questo pezzo? No. Vediamo se siete d'accordo. A me è interessato molto la rilettura di questo pezzo con l'armonica di Francesco e la tua rilettura con la chitarra. Sì. Diventato un pezzo americano da frontiera. A me piaceva wow. Per quello. Io l'ho sentito così. Che complimento. Non so se Fossati quando l'ha scritto in quell'indirizzo là. Chiamalo. Vabbè, sì. Chiamo Gianni, adesso non suona più, dice, fermare. Ma risponderà al telefono. Sì. Però chiaramente cantato da Fiorella Mannoia non aveva quell'andamento da suono di frontiera, però fatto in questa maniera qua, con l'armonica e la chitarra in questa maniera, sì, secondo me era un suono di... Sì, portava l'origine del treni a vapore, questo viaggio dava l'origine di suoni di frontiera. Sì. Quindi l'armonica era molto americana e mi è piaciuta molto. Per cui bisogna ringraziare. È piaciuto lui. Molto, è stato bravo. Sì, è nata per caso, stavamo facendo la prova generale appunto dello scorso concerto e io giro spesso con qualche strumentino un po' così, a volte anche inutile. Bisogna dire anche che Francesco è molto bravo, perché è un musicista a 360 gradi. Sì, diciamo che mi piace un po' anche sperimentare, insomma. Certo, ma è bello così, bisogna sperimentare. Sì, infatti camera mia è invasa da strumenti improbabili, improponibili. Però certo, questo molte volte dà la possibilità di sperimentare e cercare qualche colore che in realtà poi non è così... distante, no. Però certo, magari molte volte uno non ci pensa e semplicemente quel giorno ci siamo trovati con un'armonica a bocca in più e con Chiara che ha detto: dai ragazzi, vi faccio sentire questa canzone, cosa ne dite? E quindi noi ci siamo girati verso lei e abbiamo detto: bene, quindi stasera la suoni tu la chitarra. Ecco, mi hanno liberamente costretta e ecco. Beh, il colore dell'armonica cioè già il treno, sì, da quello sviluppo là, dal punto di vista americano, Woody Guthrie usava l'armonica, Woody Guthrie andava nei treni, si è girato tutta l'America con i treni, cioè il discorso del treno, dell'armonica ha un significato. Assolutamente, non da poco. In effetti questa canzone io l'ascolto molto cantata da Fossati più che, certo, da Manoia, che forse no, ha Manoia un ha un'altra colorazione, più. Assolutamente sì, è molto più suo, molto personale, certo, per carità, certo, non certo, siamo certo qui a giudicarla, però ecco, Fossati forse già più fa intendere questa cosa, che invece l'abbiamo portato un pochino più alla luce. Io sono stato molto soddisfatto, anche sicuramente Agostino, questa, certo, questa versione. Poi a me Fossati e Mannoia insieme, ecco, insomma, piace, sono tra i miei autori cantanti preferiti italiani, ovviamente, insomma, assieme agli Stadio e assieme a un gruppo che non conosce nessuno, ma non facciamo nomi. Chiara, siamo arrivati alla fine. Sì. Sono le 22:25, adesso c'è Marco con la musica rock subito dopo di noi. Ma prima però dobbiamo ricordare i tuoi, come dire, appuntamenti, i tuoi, sì, dati, se qualcuno ti vuole contattare. Ma certo! Non il numero di telefono però. Beh, chiaramente no, chiaramente no. E a parte che c'è scritto da varie parti, comunque non importa. Allora, vi aspetto numerosissimi. Nella mia pagina Facebook, che è Cli Chiara Beltrame, magari Cli, vi spiego perché infatti, certo, volevo sempre chiedertelo. Certo. Cli è un, come si può dire, nomignolo. Affettuoso, con cui mi ha sempre chiamato mia sorella e da allora molte altre persone, quindi c'è chi mi conosce come Chiara, c'è chi mi conosce come Cli, mi sembrava un nome anche simpatico e così l'ho messo a nome del mio disco. E quindi la mia pagina Facebook è Cli Chiara Beltrame. E lì mi trovate sul sito www.clibeltrame.com. Vi ridò anche il sito di Grace, che è questo progetto dell'India, che è www.gracegroup.it. Francesco lo trovate per tutte le fans che si sono innamorate durante questa ora e mezza di E non c'erano le telecamere. E non c'erano, penso. Ma faremo le foto poi. Faremo le foto. Lo trovate su Facebook, sì. Francesco Rocco. Avremo un picco di richieste di amicizia. Preparati, ecco, e vi aspetto, ci sono vari appuntamenti quest'estate che li trovate tutti nella mia pagina, ma in particolare vi aspetto il 22 luglio, sabato prossimo, domenica 22 luglio alle 21 a Villa Breda a Padova, per la presentazione del disco e il lancio anche del videoclip, insomma seguiteci. E ve lo sottolineo il fatto che è gratuito, quindi gratis. E poi i prossimi appuntamenti invece, i prossimi concerti in giro, vai in giro? Dove? Allora, guarda, vai all'estero anche? Sì, quest'estate sarò sia in Ungheria che poi a Vienna, e quindi non ci si ferma mai, sarò in Molise, quindi proprio non ci si ferma mai. Se mi seguite su Facebook o in internet sarete aggiornati in tempo diretto. Benissimo. Allora, Chiara. Ma ci stiamo già salutando? Dobbiamo. Va bene, per questa volta va bene. Io posso dire, ascoltatori di Blu Radio Veneto, ringraziamo pubblicamente Agostino, ecco, e Maurizio, perché hanno una passione per la musica pazzesca e dobbiamo veramente ringraziarli. Io vi ringrazio personalmente, lo dico proprio onestamente, perché date voce alla musica e date la possibilità di farsi sentire, che è una possibilità sempre più rara in Italia. Quindi io l'ho già detto, lo ripeto, lo ripeterò, io vi dico un grazie di cuore per questo. Ti ringrazio anche a nome di Maurizio, ovviamente, di tutta Blu Radio Veneto, ma io vorrei ampliare questi tuoi ringraziamenti, insomma, questi tuoi complimenti a noi, a tutto il gruppo. Certo, siamo uno staff, siamo un gruppo di amici, ognuno ha una parte, per esempio Marco, anche lui fa parte di regia, c'è Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che anche lui seleziona, soprattutto lui più che me, insomma, seleziona i cantanti, e poi c'è Flavio. Sergio, c'è Flavio, insomma è un gruppo coeso, un gruppo, cioè, perché la radio tutti, è un gruppo, tutto, è un gruppo, tutto il gruppo della radio, cioè. Diamo tutto quello che possiamo, insomma, che possiamo fare per dare voce alla vostra musica, soprattutto gli emergenti, che sono, come dico sempre, io lo ripeterò per l'ennesima volta, spesso e volentieri siete decisamente migliori di tanti big. Almeno questi sono i miei punti di vista. Grazie. Chiara, con cosa ci saluti? Allora, intanto vi saluto con un abbraccio virtuale, radiofonico, e mi sono arrivati vari messaggi che ci state ascoltando veramente da tantissime parti, quindi sono molto contenta di questo, vi ringrazio. Con cosa vi saluto? Facciamo un pezzo live. Mi pare giusto, Allora vi saluto. Adesso io non so fuori perché sono dentro lo studio, comunque credo che ci sia la luna. È una canzone che ho scritto tornando da un viaggio. Ero con una mia amica Giulia, e E praticamente mi ero addormentata, mi sono poi svegliata e fuori dal finestrino c'era la luna molto vicina a me. E questa canzone è dedicata a questo incontro ravvicinato con la luna e si chiama appunto Altera Luna. E con questa vi auguro una buona notte. In bocca al lupo per il tuo disco, che abbia un grande successo ovviamente. Vi ricordo, si chiama Cli, semplicemente, Chiara Beltrame, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi, con piacere sempre. E in bocca al lupo anche per la tua carriera musicale. Ciao Maurizio. Grazie. Ciao Agostino, ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana. Con Erika Boschiero la settimana prossima. Sì, esatto, con Erika Boschiero, giovedì prossimo. Giovedì prossimo. E grazie ancora a Francesco Rocco. Grazie a voi. Ovviamente. Buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Brulato Veneto che continuano con Marco e la sua musica rock. Prego. Tristi di chissà cosa c'è dietro, cosa c'è di là, triste rammarico, oh, felicità sommessa, sommersa nel cielo scuro di giallo illumini con la tua luce bianca. Innamorato da farti esistere quando lui non c'è.